Oggi è giovedì, sono le 17:30 e sta per iniziare un nuovo appuntamento con Artra Radio Roma, la radio che tratta musica solo Creative Commons. Sono un po' di settimane che noi dell'Artra Radio Roma siamo entrati in collaborazione con Fuso Radio per farvi conoscere tutti gli artisti che sono sotto licenza Creative Commons. Per farvelo spiegare meglio, per farvi entrare meglio nella cabeza, il significato delle Creative Commons, oggi abbiamo con noi la voce di Pasqualino Ubaldini, un grande musicista, un nostro grande amico e nonché un grande promulgatore di queste licenze. Allora, Pasqualino, che cosa sono le licenze Creative Commons? Parliamone insieme, dai! Che possono essere divulgate, diffuse in tutto il mondo in maniera gratuita e anche non. Le licenze che sono disponibili e possibili da usare sono differenti e includono la condivisione con i diritti dell'autore, includono anche la commercializzazione di alcune opere, se stabilite con l'autore stesso, e includono anche altre forme di pubblicazione, tra cui la completa utilizzazione delle opere da parte di terze persone, sempre se in concomitanza, quindi in accordo con l'autore stesso, dichiarando la paternità delle opere. Con questa tipologia di licenze e di pubblicazioni si è avuto ultimamente uno sviluppo sia nel campo delle arti musicali, figurative, testi immagini, libri, e fotografie e altri campi. Anche per quanto riguarda l'utilizzo di libri scolastici e software da utilizzare sia in ambito scolastico che in ambito privato e di ricerca. Ringraziamo Pasqualino Ubaldini per la sua spiegazione che abbiamo preso da un concerto live dove appunto spiegava licenze Creative Commons, e entrerei subito nell'assaggiare, nell'assaporare quella che è il tipo di musica che oggi vado a proporvi. Loro sono i Retrosonic, sono stati pubblicati a metà marzo del 2011 con un nuovo lavoro che potete trovare su Jamendo, e ci andiamo ad ascoltare Smoked and Stoned. Smoked and stoned, knocked to the ground. My eyes are closed, not feeling a sound. There's a little sunshine in my mind. Yeah. Una cosa importantissima che volevo soltanto sottolineare, anche per chi ci sente in diretta in questo momento tramite il sito e la piattaforma di Natta Radio Roma, è quello che la pubblicazione delle opere copre anche i testi scolastici. Detto questo, sigla! Feed me baby. Can't hold me back. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Originale, originale, originale. Nazza Radio Roma, Nazza Radio Roma. Solo su un'altra radio Roma, musica originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, solo su un'altra radio Roma, musica originale. Bene, bene, bene, bene. Dopo la sigla, la mia voce. Io sono Mr. Gasperino, voi siete su Fuso Radio e state ascoltando Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma, Nartra Radio Roma. Ringraziamo Radio Roma, Pasqualino Ubaldini per la spiegazione sulla Roma, Creative Roma, Commons che noi non ci stancheremo mai di raccontarvi e di mettervela lì, così, su un piatto. Vado avanti con quella che è questa trasmissione, che non ha nessun senso, parte dal nulla per arrivare non so a dove, forse probabilmente verso il nulla. Vi chiederete il perché? Perché l'unica voglia che abbiamo è quella di trasmettervi buona musica. E non vi preoccupate, i gruppi di oggi vi faranno in qualche modo ballare, ballare, mentre per qualcuno la fine è già arrivata, Love Revolution cantano Arriva la fine. Arriva la fine, la senti la fine, che bella la fine. L'amore è la fine, lo stato è la fine, la massa è la fine. Questo è un inno a te, questo è. Domani ti abboni a Sky. Oggi fai la rivoluzione, domani lavorerai. Oggi fai la rivoluzione, domani la rinnegherai. We'll be right back. Nartro Rock, rock. Fuso radio, fuso radio. Da Nartra, Radio Roma, Radio Roma. Questa piattaforma di Giamento ha permesso a tantissimi artisti di pubblicare le loro opere, sempre con licenza Creative Commons. Grazie, abbiamo capito. Ti ringraziamo per averci spiegato bene quelle che sono le licenze Creative Commons, il mondo di Giamendo, eccetera. Dimenticavo di dirvi che è un po' di settimane che è partito questo progetto tra Nartra Radio Roma e Fuso Radio, quello di preparare dei podcast di musica esclusiva autoprodotta, Creative Commons, e metterli su tutte e due le piattaforme. Quindi quello che state ascoltando oggi da Nartra Radio Roma lo potreste ascoltare giovedì su Fuso Radio, o viceversa, quello che ascoltate su giovedì su Fuso Radio lo potreste ascoltare un altro giorno su un podcast pubblicato su Nartra Radio Roma. Andiamo avanti con gli artisti scovati sempre nel mondo di Giamendo. Loro sono High Hopes e ci presentano Bar The Show. Nartro Rock, rock. Su Fuso Radio, rock. Fuso Radio. Da Nartra, Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. I can tell you better burn us down in stone, my friend, before the end just for our world. Pretend I'm not afraid of being stuck nowhere, if it's out of sight. Until the angels fall, I won't. Siamo riusciti ad accompagnare alla porta Pasqualino Ubaldini, che ringraziamo per averci spiegato così bene le licenze Creative Commons, ed è venuto a trovarci qui Mr. Campo. Buonasera Mr. Campo, come sta lei? Qui tutto bene. Lei, Mr. Gaspo, che cosa mi dice? Tutto a posto. Allora, stiamo cercando la miglior voce per UFO Robot d'Acciaio qui su un'altra Radio Roma, giusto, Mr. Campo? Allora, adesso la riprendo davanti a tutti, anche perché tutti? Con i cartoni non deve giocarci. Non giocare è con i cartoni. È Gig Robot d'Acciaio. Eh? E quell'altro c'ha un altro nome. È UFO Robot. UFO Robot è Goldrake. E quindi? Non c'entra niente. Con chi? Con Gig Robot d'Acciaio. E quindi? E quindi basta questo UFO Robot d'Acciaio. O è Gig Robot o è UFO Robot, devi scegliere. Ah, uno di due devo scegliere. Ora ci penso e le dico quale ho scelto. Va bene? Ok, arrivederci. Ok, finiamo qui la trasmissione. La vedo che sta pensando troppo e vedo le due scimmiette che giocano dentro il suo cervello, Gaspar. Esatto, questo mi mette sì. Molta ansia. No, è che si era un attimo incacchiato il computer e stava facendo una serie di cose che non doveva fare. Rischiavamo di interrompere qui la nostra stupendissima diretta sugli UFO o sui robot. Allora non ha capito, allora dobbiamo andare avanti quasi tutta la sera. Diciamo perché. Quale tipo di UFO? Ecco, vedete, sentite i rumori? Ma l'ha detto che ha fatto l'intervista l'altra settimana, mi dici... Palcoscenico al Neon? Certo che l'abbiamo detto che abbiamo fatto un'intervista l'altra settimana ai mitici... Però visto che la gente ancora non si è scaricata, perché non la ripubblicizziamo? In palcoscenico al Neon o in Neon palcoscenico? No, sono palcoscenico con la doppia K al Neon. Ottimo. Capito? Sono abbastanza... Infatti l'abbiamo convinti a levare le K. Dai! Sì, perché abbiamo detto, cioè, voglio dire, però è troppo. Però erano più estremisti. No, ma loro nell'ultimo disco sono più introflessivi. Ma dai. Sì, guarda, è una figata, ho sentito quell'album. Ma non ce l'abbiamo un pezzo da mandare? Non lo so se li ho cancellati. Ma come li ha cancellati, Gaspo? Ma non lo dica. Nel senso che io ci hanno regalato pure il CD, c'ho il CD, nel caso posso mettere il CD, il vinile. No, guardi, proprio perché lei non l'avevo cancellato, ho esattamente tre cartelle di palcoscenico. Oh. E le passo il brano. Questa è una canzone d'amore. D'accordo? E dai, che sull'altra Radio Roma si ascolta sempre musica Creative Commons. D'amore. Cioè, senza d'autore, senza copyright. Loro sono autoprodotti completamente e sono senza etichetta completamente. Sono senza una lira. Completamente, ma sono al quarto album. E quindi... sono proprietari di se stessi. Esatto, soprattutto sono al quarto album. Con un filo di voce è il brano dei palcoscenico al Neon. Chiunque può scaricare il podcast che è presente su Nartra Radio Roma o comunque su www.nartraradioroma.blogspot.com. Nartro Rock. Rock. Fuso radio, Rock. Fuso radio. Da Nartra, Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Guarda mese il giorno, che finisce ora. Ti dobbiamo gli occhi, senza respirare. Lasci notti al contrario, parole sussurrate. Il vuoto mai nascosto, è un momento migliore. Che ti lascia le spalle, con un filo di voce. Che ti lascia le spalle. Sono andate su un letto di fiori, maschere insanguinate. Parole disperate che se ne sono date su un letto di rene, maschere insanguinate. Che ti lascia le spalle con un filo di voce. Che ti lascia le spalle con un filo di voce. Che ti lascia le spalle con un filo di voce. Che ti lascia le spalle. We'll be right back. Allora, Mr. Campo, di chiacchiere già ne abbiamo fatte tante, quindi vado spedito come un treno a presentare un altro brano. Loro sono gli Eugenie, formazione di Bolzano che vive insieme dal 2000, ha avuto diverse trasformazioni e hanno presentato 3 album. Il brano che stiamo per passare ed estratto dal primo album dal titolo Ciò che vorrei, che trovate su Giamendo. Loro sono gli Eugenie e il brano è Perfetto Manichino. Su Fuso Radio. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Su Fuso Radio. Un'altra radio Roma. Mai prenderò la parte di nessuno, perfetto manichino, ma non mi inchino, no. E il peso del mio sonno non mi attenua intorno, il desiderio del sogno. Aspetto vivamente la tua reazione, sgomenta isolata, ma l'attenzione ci devi fare caso con la semplicità. Che il vuoto da colmare è un abisso a fondo e a volte lo ritrovo ancora più profondo per la mia inquietudine, per le tue novità. Confusamente ancora ingoio rospi amari, sospesi tra i ricordi di bordi cancellati, e il desiderio del sonno non mi attenua intorno, il desiderio del sogno. La tua reazione sgomenta e isolata, ma l'attenzione ci devi fare caso con la semplicità. Nel vuoto da colmare è un abisso fondo e a volte lo ritrovo ancora più profondo per la mia inquietudine, per le tue novità. The music, the music, is free. Un'altra radio Roma. Roma. Abbiamo invaso il well. Un'altra radio. Un'altra radio Roma. La radio che crea il movimento. Partiamo dal mondo per tornare a Roma vincitori. Ma che è? Dicono, non è la radio, è un'altra radio. Un'altra radio Roma. Non c'è un'altra. Radio Roma. Un'altra Radio Roma, dove la musica è la padrona. Un altro rock, rock. Fuso radio, fuso radio. Da un'altra Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Of your mind, a blinded prisoner trapped inside. Do you run away and hide? Will you save yourself from the rising tide? To tell yourself I won't sacrifice that for nobody else. Close every door, cause only you know you got nothing to do, you got no place to go. Well, I sell the book page by page, the method's getting pretty strange. I write Allora, eccoci di nuovo in diretta. Allora, di nuovo in diretta. Da qui a cent'anni. Titor ha fornito dettagli tecnici. Attendo che abbasso la musica. Grazie. Prego. Vado. Però ci sta bene di sottofondo. Sì, eh? C'è tuttora. Ah, ok, perfetto. Però lo rompe. Allora, Titor ha fornito dettagli tecnici. Io abbasso la sua voce. Ok, leggo oppure io chiudo, me ne vado. Abbasso la musica. Abbasso la sua voce. Abbassi la prego, prego, scusi. Titor ha fornito dei dettagli tecnici. L'ho abbassata troppo? Mi sento più. Ok, lei ha il mio microfono. Troppo alto? Lei non vuole farmi dare notizie. Mi sta boicottando. Lo fa apposta. Le rompo il computer. Gli spacco il microfono. Smetto, eh? Continui. Anche se oggi il termine UFO è come elemento utilizzato per riferirsi a qualsiasi avvistamento non identificabile, indipendentemente dal fatto che allora, sia mentre lui continua a parlare ed è convinto di starvi a dare una serie di notizie, io vi dico che il gruppo che avete ascoltato era statunitense, rispondeva al nome di Tequila Mockingbird e il brano è The Method dall'album UFO che trovate su Giamento. Mentre il prossimo gruppo che vi sto per passare sono un progetto che nascono a Siena da Marco e Riccardo e sono i Mir. Il brano si intitola People. 47. che ha dato origine a termini popolari come non svegliate Kempo. Paese che comunque negli anni ha avuto diversi accostamenti a eventi misteriosi, dal Sacro Graal agli alieni che si fossero stabilizzati sotto all'interno della montagna e vari eventi. E nell'ultimo periodo sembra proprio che molti benestanti da tutte le parti del mondo abbiano acquistato appezzamenti di terra che fino a qualche anno fa erano utilizzati solo ed esclusivamente al pascolo per fare le loro abitazioni e salvarsi da abusivi anche lì, gli alieni abusivi, vedi. Ringraziamo Mr. Campo per la spiegazione sugli UFO, sugli alieni, sul mondo extraterrestre. Del resto, chi gliel'aveva chiesto? Boh, forse era proprio questo il nulla di cui parlavo all'inizio. Partire da un punto che non è ben chiaro per arrivare a un punto che non è ben chiaro. L'unica cosa che resta chiara sono gli artisti che vi stiamo proponendo quest'oggi. Sono tutti artisti che utilizzano licenze Creative Commons che potete trovare tranquillamente sulla piattaforma di Jamendo. E il prossimo artista risponde al nome di Wake Up e ci presenta In The Hand New qui su Fuso Un'altra Radio Roma. Su Un'altra Fuso Roma. In the end, you will notice that all the lights will never light. And in the end, all you know is that there's no truth you cannot hide. If I waste my days and I waste my nights for you, I just waste my life and I waste myself for you. In the end, you will notice that all the lights will never light. And in the end, all you know is that there's no truth you can. So I waste my days and I waste my nights for you. I just waste my life and I waste myself for sure. La formazione che vi sto per passare la trovate tranquillamente su MySpace, su Facebook, ma soprattutto su Jamendo. Rispondono al nome di Karama e sono di Torino e sono rispettivamente quattro ragazzi: Joe, Adri, Manuel, Foxboy. E ci andiamo ad ascoltare Cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, cuore di latta, rock. Rock. Fuso Radio, Fuso Radio. Da un'altra Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Sono l'uomo di latta ed un cuore umano. Ero anch'io carne d'ossa. Ero anch'io come voi. Yeah. Il progetto dell'Altra Radio Roma è quello di promuovere artisti Creative Commons o autoprodotti, che come vedete, ormai avrete incominciato ad assaporare le nostre pietanze, sono di ottima fattura. Pertanto, chiunque voglia cimentarsi a produrre un podcast, lo può fare tranquillamente purché utilizzi questi artisti. Lo impacchetta, lo spedisce a nartraradio@live.it e noi. Ma a che serve sto bottone? No, sta fermo, non lo schiaccia! Io lo spingo. Lo manderemo in onda. Nartraradio Roma. Infilo le mutande. La mia faccia si riflette nello specchio del bagno. E Dio che alito pesante. Non riesco ancora a crederci che ti ho lasciata andare. Eravamo sul mio letto mano nella mano. Mi ricordo prima di svenire. E ora non ho più il coraggio dagli amici di farmi vedere. E con che faccia gli racconto che era quasi fatta. E ho grippato prima di partire. Penso e forse in fondo, una soluzione c'è. Se riesco a riportarti sul divano a casa mia, niente canne, mi faccio un tè. La vita dura un secolo, se non gira come puoi. Tu mi dici con ogni l'attimo, ma io non mi colgo mai. Sarò io che sono un bradipo, sono chiuso dentro e poi. Sarò io che non sono pratico. Come fai? Lasciami stare, fammi parlare, tu non mi fermerai. Quello che ho dentro in questo momento, il male che mi fai. Ne faccio uso, ma non abuso delle sostanze che... Quando le prendo sono convinto mi colgano con te. Lo so che hai ragione, dici che sono immaturo e che dovrei cambiare. Ma tu cerca di capire la mia situazione, se non mi drogo non so far l'amore. Chiamo e ti richiamo e alla fine rispondi e dici sai che cosa c'è? Se un'altra volta ti dovesse venir voglia di chiamarmi lascia stare, fai da te. La vita dura un secolo, se non gira come vuoi. Tu mi dici cogli l'attimo, ma io non lo colgo mai. Sarò io che sono un bravo, sono chiuso dentro e poi. Sarò io che non sono pratico. Hey, I. questa appena passata era una formazione romana che risponde al nome di Scompiglio, anch'essa la trovate su Giamendo come tutti i brani di quest'oggi. Traccia che risponde al nome di Bradipo. Ma un momento, che sta entrando qualcuno negli studi dell'Altra Radio Roma. Aspettate, chi è? Una cosa importantissima che volevo soltanto sottolineare, anche per chi ci sente, questa piattaforma di Giamendo ha permesso a tantissimi artisti di pubblicare le loro opere, sempre con licenza Creative Commons, di stabilire contatti e basta, abbiamo capito. Per favore, Kempo, lo fai uscire? Dai, forza, prego, prego, si accomodi, esca. Grazie ancora una volta a Pasqualino e speriamo di non doverlo ringraziare più, visto che stiamo giungendo al termine di questa trasmissione. Passiamo all'ultimo brano per quest'oggi. Loro sono i Desert Sons con Nuts. Nartro Rock, rock. Su Fuso Radio, rock. Fuso Radio. Da Nartra, Radio Roma. Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. We'll be right back. altro rock, rock. Fuso radio, fuso radio. Da un'altra Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma. Siamo così giunti al termine di questa trasmissione. A me non resta che ringraziare Fuso Radio per lo spazio settimanale che ci dà e lascio la linea a Kempo per i saluti. Sono le 18.30, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Speriamo che vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti molto. Questa era un'altra Radio Roma in collaborazione con Fuso Radio. Buona serata a tutti, alla prossima. A Gasperino non resta che ringraziare tutti gli artisti che hanno scelto le licenze Creative Commons. Vi dà appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, allo stesso giorno, con uno di noi quattro. Chi sarà? Cocot, Cocot, Kempo, Kempo, Gasperino, Gasperino, Bruntolo, Bruntolo, Bah, chi lo sa. Intanto buona continuazione di serata con i programmi di Fuso Radio. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma che idea? Ma che idea? Boh, dicono la radio. Tu sai che? Tu sai che? Tu sai che? Dicono non è la radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Come? Un'altra radio! Un'altra radio. Un'altra radio. Un'altra radio Roma. La radio in bassa frequenza. Frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza.